L'economia delle piccole cose. Di Anna Migliorati. Chi è il più bello del rione? Televisione. Fammi vincere un milione. Televisione, televisione. Chi è che c'ha il più bel faccione? Niente parenti, niente cenoni, niente sci, niente gite. E allora cosa faremo in queste feste? Voi un'idea ce l'avete? Io sì. La nostra chiesa e la nostra religione, tu che ci accompagni a cena, a merenda, a colazione. Ben ritrovati da Anna Migliorati. Non ditemi che non faremo una buffata di TV, perché tanto ci sono già i numeri a raccontarcelo. Ma allora cambia anche la TV con il boom di spettatori? Boom di offerte e aumento dei costi porteranno, come già si sussurra, verso una bolla della TV via streaming? Cominciamo dal principio. Cosa è cambiato innanzitutto rispetto ad un anno fa? Semplice, direte. Beh, io mi faccio però aiutare e lo saluto da subito da un ospite che conosciamo a Radio 24, Massimo Scaglioni, docente di storia dei media all'Università Cattolica di Milano. Più spettatori e anche una TV diversa, Scaglioni? Diciamo, tradizionalmente il periodo delle feste di Natale era considerato un periodo di bassa stagione e quindi, diciamo, le reti televisive fondamentalmente programmavano in gran parte quelli che tecnicamente si chiamano i diritti, cioè soprattutto i film di Natale, cioè non delle produzioni originali. Quest'anno è completamente diverso, in maniera analoga a quanto si è visto ovviamente a marzo e aprile durante il primo lockdown. Abbiamo già visto, a partire da ottobre-novembre, quindi con tutti i vari decreti successivi che sono stati approvati, abbiamo visto una forte crescita del consumo, tanto di televisione tradizionale quanto di consumo in streaming e in generale di navigazione online. Che poi TV non è più solo il televisore, anzi, ormai l'abbiamo detto tante volte, vuol dire anche PC, tablet, smartphone. Esattamente, è proprio questo il dato più interessante, perché la televisione come mezzo è rimasto, anzi ha riaffermato davvero la sua centralità. Nel periodo del primo lockdown abbiamo visto dei dati di consumo della televisione che sono arrivati veramente a dei livelli mai visti, proprio a 6 ore medie di consumo individuale. Però quello che è cresciuto di più in realtà è stato il consumo di contenuto televisivo ma in streaming, che possono essere tanto PC quanto gli smartphone, quanto i tablet e in misura crescente le smart TV, cui uso si è fortemente rafforzato proprio in quest'ultimo periodo. Il dato del consumo diciamo di televisione attraverso le forme di streaming ha una crescita percentuale molto superiore, siamo oltre il 50%, diciamo novembre su novembre dell'anno scorso. E sul tema della programmazione, chiudo perché era il discorso che stavo facendo, diciamo soltanto in parte cambia, perché ci si trova un po' paradossalmente in una situazione simile a quella di marzo, cioè da un lato c'è questa forte crescita dei consumi, quindi in teoria no, le reti avrebbero tutto l'interesse ad avere una forte programmazione, dall'altro lato però poi le produzioni sono ancora scontrate con tutta una serie di problemi e quindi diciamo che le reti tradizionali stanno tendenzialmente riproponendo un palinsesto che assomiglia molto a quello degli altri periodi delle cosiddette delle strenne, no? Penso per esempio uno speciale dedicato a Caravaggio con Alberto Angela, Roberto Bolle alla fine dell'anno. Il Grande Fratello di fatto non si conclude, quindi diventando forse l'edizione più lunga della storia del Grande Fratello. Quello che forse cambierà di più sarà la programmazione invece dei servizi over the top, dei servizi di streaming. Sappiamo già che per esempio la Disney proporrà su Disney Plus il nuovo film della Pixar che è Soul. Ci sono tutta una serie di uscite sulle piattaforme, anche la Warner. Ha pesato la chiusura del cinema? Anche quello di fatto era un tipico appuntamento natalizio. se pensiamo soprattutto alle grandi major americane, ha spinto, pensiamo alla Disney, alla Warner, alla Universal, a uscire in piattaforma. Quindi questo porta un contenuto pregiato direttamente sulla piattaforma, e questo non può che dare grande slancio alle piattaforme. Di fatto la Warner ha annunciato l'uscita dei suoi grandi film anche per il 2021, come ad esempio Dune, cioè i film davvero di blockbuster, sulla piattaforma, proprio per dare slancio alla propria piattaforma proprietaria. Quindi da questo punto di vista, senz'altro, questa forse è la novità più importante. Tanta TV, tanto consumo, si tradurrà anche in maggiore investimento? O il paradosso è proprio tanto consumo, pochi soldi, e i nuovi attori aiuteranno? Temo si vada verso una sostanziale riduzione. Già nelle scorse settimane c'è stata tutta la discussione, la polemica su quanti saranno gli investimenti della RAI sul genere più pregiato per la RAI, che è la fiction. E di fatto la RAI è il grande sostenitore, no, della fiction italiana, con molti milioni di euro investiti. Ovviamente quest'anno deve anche risentire del fatto che gli investimenti pubblicitari sui broadcast sono diminuiti. Dal punto di vista positivo, il fatto che le piattaforme di cui parlavamo prima hanno iniziato ormai da un po' di tempo a investire in contenuto, quelle cose che loro chiamano contenuto locale, quindi il contenuto nazionale, no? Quindi questo un po' controbilancerà le perdite, certo. Grazie allora Massimo Scaglioni. L'altra faccia della medaglia, dietro il televisore, che poi, inutile continuare a ripeterlo, non è più solo il televisore, ci sono i costi. Budget record, 160 miliardi di dollari per le produzioni TV, quelle internazionali e non solo made in USA ormai. Siamo al top, e la pandemia che ha spinto dall'altra parte gli abbonamenti alle piattaforme digitali. Ma se crescono i costi, ora rallentano le produzioni. Insomma, i paradossi dell'economia. E allora, come dicevamo, si avvicina una bolla della TV? Facciamo i conti. Li ha fatti la Boston Consulting, società di consulenza strategica. Allora saluto e ringrazio Bartolomeo Banche, responsabile settore telecomunicazioni, media e tecnologia. Benvenuto con noi. Grazie. Sì, è così. Negli ultimi 10 anni i budget sui contenuti sono quasi raddoppiati. Per dare due ordini di grandezza, stiamo parlando di una spesa 10 anni fa di circa 90 miliardi di dollari, che al 2020 è di 160, e ci sono dei player globali come Netflix, per esempio, che ha dei budget molto molto significativi, dell'ordine di 17-18 miliardi, che è addirittura superiore al PIL di nazioni vere e proprie. Quindi è una competizione molto diversa da quella che c'era in passato. Voi avete anche estratto alcuni costi che hanno anche del curioso, ad esempio il singolo episodio di una serie TV. Quanto costa? Spinta verso contenuti ad alta qualità, quindi produzioni a livello Hollywood, per farla semplice. Lì parliamo dell'ordine dei milioni di dollari, quindi 3-4 milioni a puntata, mentre prima si parlava, quindi, dalle centinaia di migliaia a magari 1-2 milioni per episodio. Quello che si rischia, voi dite, è una bolla di tutto questo tipo di TV che ci ha un po' invaso in questo 2020. In che senso? Bolla di produzione, bolla di costi? Da diverse prospettive. Lato consumatore c'è un'esplosione dell'offerta, quindi c'è una varietà molto più alta rispetto al passato. Aumentando la frammentazione, l'utente rischia di perdersi nell'offerta. La soluzione verso cui si sta andando è l'utilizzo di algoritmi digitali, quindi intelligenza artificiale e simili, per avviare un discorso più di personalizzazione. L'altra, quindi mi riduci la possibilità di scelta perché io non sia sommerso da troppi titoli. Sì, cioè io ho sempre a disposizione tutto il catalogo, quindi tecnicamente non riduco la possibilità, però facilito la scelta proponendo prima programmi che so già, in base a quello che ho guardato in passato, alle mie preferenze, piacerà. Netflix, da questo punto di vista, addirittura già oggi ha un indice che, secondo loro, questo programma piacerà all'utente al 98%, 70%, quello che è. L'altra questione è si dice con il 2020 c'è stato un boom di abbonati, cioè costretti a stare in casa, ci siamo affrettati a fare abbonamenti alle TV via streaming per avere più offerta. In questo 2020 potrebbe essersi mangiato la crescita dei prossimi anni? Secondo me no, nel senso che la crescita nel 2020 è stata sicuramente al di sopra delle aspettative. Stiamo facendo riferimento al primo lockdown a marzo, a una crescita del 60% rispetto allo stesso periodo dell'anno prima, però è una crescita che comunque va in continuità su un trend fondamentale che già c'era. E i livelli di penetrazione di questi servizi rimangono comunque a livello macro abbastanza bassi, soprattutto in Italia. Quest'anno però non si sta producendo tutto quello che normalmente si sarebbe prodotto causa i vari stop dei vari set. Sarà il momento in cui avremo grande domanda e meno offerta di quella prevista? Secondo me siamo abbastanza lontani, perché il portafoglio è comunque molto ricco. L'elemento interessante di tutto questo è che l'accesso a teatri di posa per contenuti sceneggiati sta diventando sempre di più di vantaggio competitivo, per cui vari Netflix, Amazon Prime, eccetera, stanno firmando contratti a lungo termine con i vari centri di produzione, perché questi iniziano un po' a scarseggiare rispetto al desiderio di produrre contenuti. Una cosa che forse può sorprendere è che il fatto, per esempio, che la Turchia sia diventata già ad oggi il secondo esportatore di contenuti televisivi al mondo, dopo gli Stati Uniti. La Spagna sta seguendo un percorso simile, è un gioco sempre più globale e sempre meno nazionale. E noi? Ci sono discussioni sul potenziale di sviluppare dei centri d'eccellenza simili a quelli spagnoli per servire forse, per esempio, l'Europa dell'Est o mercati comunque meno sviluppati. Servire mercati come la Francia o l'Inghilterra è un po' più difficile al momento, perché sono molto avanzati e molto sofisticati. Attenzione dunque a non perdere questo treno. Grazie anche a Carmelo Lauricella in regia. Ancora un saluto da Anna Migliorati. Buone feste, buona TV. Qualche riflessione da fare, qualche numero su cui riflettere mentre guardate il vostro schermo, quello che preferite, noi sempre questo. Perché accenderò la radio.